Hadith numero 9 da Abu Huraira Abdurrahman bin Sakhr, che Allah sia compiaciuto di lui, disse: udii l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dire: tenetevi lontano da ciò che vi ho proibito e fate ciò che vi ho ordinato nei limiti delle vostre possibilità. Solamente il gran numero delle loro domande e le loro divergenze sui loro profeti hanno mandato alla rovina coloro che vi hanno preceduto. L'hanno riferito l'Imam al-Bukhari e l'Imam Muslim.